Saltroni nello spazio, la trasmissione musicale. Dai Marco. Ero distratto perché non ho le cuffie. Ritmo. La trasmissione informatico-musicale tecnologica di Radio Onda d'Urto. Insomma, si parla di libertà digitali e di tante altre cose. Nuove tecnologie. Marco non si è preparato il solito schemino e quindi insomma lo cogliamo un po' impreparato. In onda tutti i mercoledì dalle 12.40 circa su Radio Onda d'Urto, a cura di Marco, Francesco e Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Che oggi è anche un po' il nostro mixerista, come al solito, nonché curatore della musica. Che cosa ci proponi per questo pomeriggio? Per questo pomeriggio un CD di un amico, Neuro, che ha avuto un po' di tempo ultimamente per produrre una serie di dischi. E questo qua è il primo che ha prodotto, mi è passato sabato. E niente, poi dopo ne parleremo un attimino. Allora, la puntata di oggi è essenzialmente dedicata a news, nonché e inoltre anche a un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio a Padova. Iniziamo magari a parlare proprio di questo, l'adunanza digitale per il copyleft, una esperienza, quella di adunanza digitale che sta durando da un po' di tempo, soprattutto online, e poi i seminari che si tengono in vari posti, che sono felici di accogliere dibattiti di questo tipo. Oggi tocca al Copyright Caffè in via Marzolo 15E a Portello, a Padova, un punto di incontro, quello del Copyright Caffè, che ha già fatto parlare anche in passato. Noi ve lo segnaliamo anche se non potete andare a Padova nelle prossime ore, perché a partire dalle 4 ci sarà il dibattito, alle 16 un viaggio itinerante sulla convergenza digitale della LAN del Copyright, che forse questo non è molto interessante per chi non abita nel quartiere Portello, ma a partire dalle 17 invece un workshop wireless convergenza dei diritti digitali con diversi interventi che sarà possibile ascoltare e guardare addirittura, sempre che le condizioni tecniche lo permettano, sul sito www.adunanzadigitale.org. Ma per meglio parlare di questa iniziativa andiamo ad ascoltare l'intervento di Benedetta del Copyright, intervento registrato da Global Radio. Adunanza Digitale è un evento che è stato lanciato da un insieme di persone, da un collettivo in realtà residente a Caserta, ma che lancia su tutta la rete web questa grande iniziativa nella quale vengono invitati collettivi, persone, associazioni, tutti coloro che lavorano durante insomma tutto l'anno rispetto alle tematiche del free software, dell'open source, della condivisione, della diffusione di Linux. Appunto questo collettivo invita tutti a partecipare ad un'iniziativa che è partita già dal 4 novembre e continuerà durante questi mesi, un'iniziativa nella quale tutti gli eventi che poi vengono svolti nelle varie città vengono messi in streaming video proprio sul sito di adunanzadigitale.org. Come Copyright Caffè abbiamo aderito a questa iniziativa proprio nella giornata del 29, questo mercoledì dunque. Al Copyright Caffè Adunanza Digitale si svolgerà in diverse tappe, proprio perché abbiamo cercato di organizzare un'intera giornata che con un respiro più ampio tocchi le varie tematiche, non solo appunto dell'open source, del free software, ma della condivisione in sé. Una giornata appunto che inizierà dalle ore 16, nelle quali appunto invitiamo tutti a passare. Alle ore 16 faremo un giro itinerante per il Portello. Questo perché? Perché al Copyright Caffè da 2 anni esiste un progetto che appunto mercoledì verrà rilanciato in una veste più ampia e più anche accessibile da tutti quelli che passano al Portello, studenti e non, residenti e non, la rete wireless. Il progetto wireless è il progetto pilota del Copyright Caffè, che appunto ha l'ambizione di dare a tutti quelli che passano dentro la grande area del Copyright Wireless Zone di poter accedere a internet in modo gratuito, in modo libero. Questa secondo noi è una grande battaglia che andrebbe fatta soprattutto qui in Italia, dove rispetto a questa tecnologia non solo tecnicamente siamo arretrati, ma le uniche zone che appunto sono coperte a livello privato da tecnologie Wi-Fi stanno mettendo in piedi una serie di iniziative soltanto speculative rispetto a questa tecnologia, che invece secondo me ha grande potenzialità di diffusione di un accesso a internet che, come rivendichiamo ormai da tempo, rientra nei diritti ormai fondamentali, soprattutto per studenti precari che hanno bisogno di accedere a internet per andare avanti nella loro formazione, ma non solo, scaricarsi musica, scaricare film. Quindi alle ore 16 ci sarà questo viaggio all'interno del portello, nel quale noi abbiamo proprio l'intenzione di andare a mostrare a tutti i punti dove è possibile connettersi alla rete wifi del copyright, che posso garantire è molto ampia. Questo sarà la prima parte della giornata, questo viaggio itinerante, e poi alle 17 invece ci saranno i workshop dal titolo Wireless, Convergenza e Diritti Digitali, a cui parteciperanno Daniel Donato di Adunanza Digitale, Digital Divide Open Source a cura di Lele Rozza di Attivazione.org, Diritti Digitali e Pratiche di Condivisione con Benedetto Vecchi del Manifesto, la Rete Senza Dominio di Nicola Grigion, un innomade del Nord-Est, il progetto Wireless, appunto, del Copyright Wireless Community, e Creare in Libertà sarà invece curato da Lello Voce, poeta e scrittore, sito lellovoce.it, e tutto accompagnato, diciamo così, con musica d'ascolto distribuita sotto Creative Commons a cura di una trasmissione di Diserzioni sulle frequenze di Radio Sherwood, la nostra radio cugina, una trasmissione che possiamo dire cugina di Cialtroni nello spazio. La cugina intelligente. Effettivamente c'è da dire che Diserzioni ha il vantaggio di non avere Marco in redazione, e che è sempre positivo. Chissà come si annoiano. E invece sentiamo un po' Marco legato, appunto, a questa notizia, di che cosa ci parla oggi? Perché appunto c'è un'altra manifestazione che ha degli intenti abbastanza diversi, che è per il domenica 10 di dicembre, appunto una prima manifestazione nazionale di piazza per la legalizzazione del peer-to-peer, ovvero per permettere a chiunque di poter scambiare senza scopo di lucro delle opere tutelate dal diritto d'autore. La manifestazione è prodotta e promossa con il contributo di Aret e di Scambio Etico, sono due organizzazioni che terranno proprio la loro assemblea costituente in quella giornata, e appunto ha come scopo quello di cercare di dare il primo segnale che la battaglia inizia e che il popolo del peer-to-peer non si ritiene criminale. Visto che ci chiamano pirati, appunto si legge nel manifesto di presentazione dell'evento, ci identifichiamo con quelli della Malesia descritti da Emilio Salgari? Così come essi combatterono per liberare un popolo dal giogo e dal sopruso degli inglesi, noi combattiamo per liberare la cultura, sapere e conoscenza dalla schiavitù di una oramai obsoleta normativa mondiale sul diritto d'autore, completamente stravolta dal principio sano che a suo tempo l'aveva ispirata. E dove si terrà la manifestazione? Si terrà a Milano. Potrebbe essere un argomento, cioè, interessante sapere dov'è la manifestazione, Marco, ad esempio. Alle ore 12 in piazza Santo Stefano. Il corteo partirà alla volta di Piazza della Scala con lo scopo, spiega Scambio Etico, di chiedere al governo italiano di abolire la legge Urbani, la legge che ha reso penalmente sanzionabile lo scambio di opere protette su internet anche senza scopo di lucro. In particolare, appunto, questa legge, il decreto Urbani, è presente da un paio d'anni oramai, c'è una legge con conseguenze penali per coloro che condividono la musica su internet, indipendentemente dal fatto che sia fatto su scopo di lucro, ovvero cercare di vendere dei CD o semplicemente con lo scopo di ascoltarsi della musica passata, sì, da qualcuno. Ne avevamo già parlato all'epoca quando era uscita. La formulazione della legge prevede appunto il termine del vantaggio personale, che va molto oltre lo scopo di lucro e che di conseguenza comprende praticamente il qualsiasi utilizzo delle opere protette di diritto d'autore, anche solo per, diciamo, intrattenimento assolutamente personale. La legge Urbani, come tante altre leggi fatte dal governo di centrodestra, è ancora attualmente in vigore, nonostante siano passati ormai 6 mesi dalle elezioni, l'insediamento del nuovo governo. E anche questa legge ha bisogno di una serie di pressioni, probabilmente, affinché... Diciamo che non se ne sta proprio neanche parlando di abolire la legge urbana. Assolutamente, come neanche il decreto Pisano, poi convertito in legge, di cui ci sono delle conseguenze, ci sono state delle conseguenze degli arresti in questi giorni, ma ne parliamo tra qualche minuto. Ma sì, infatti un caso un po' diverso, perché in questo caso si trattava anche di scopo di lucro, che però da un certo punto di vista non fa poi questa differenza, soprattutto dal punto di vista della legge. A Prato sono stati sequestrati 8 internet point. Sappiamo che a Prato c'è la più grossa comunità cinese in Italia, mi sembra che siano 25.000 i cinesi che abitano in quella zona, però no, non ci crede nessuno questa citazione. Vabbè. No, dai. Comunque erano 8 internet point che erano utilizzati soprattutto dalla comunità cinese. In questi locali c'era anche all'interno della rete un server che aveva a disposizione diverse opere protette da diritti d'autore. Punto informatico dice milioni di opere protette da diritti d'autore. Sono stati posti sotto sequestro preventivo gli internet point, un'operazione appunto che tra l'altro non riguardava soltanto delitti di tipo informatico, ma anche la legge sull'immigrazione e altre cose di questo tipo. Sono fatto contestati anche dei permessi di soggiorno, non, persone che avevano già il decreto di espulsione, che sono state arrestate appunto perché non avevano attuato il decreto di espulsione che avevano. E diciamo che in questi locali c'erano enormi quantità di copie illegali, così vengono definite, materiali protetti da diritto d'autore, numerose persone che fruivano degli internet point senza che avessero registrato, perché questo richiede la legge, quindi senza che venisse registrato chi decreto. Stava facendo qualcosa in che preciso momento. Ecco, questa è la parte più interessante, diciamo, che vabbè, per quanto riguarda la condivisione, sostanzialmente in questo caso lo scopo di lucro rispetto alla condivisione di opera coperta da diritto d'autore, vabbè, effettivamente il reato penso più o meno discutibile. E quindi, sorvolando, diciamo, su questa parte, la cosa più interessante e più grave è appunto l'applicazione massiccia del decreto Pisano, che obbliga gli internet provider, gli internet point, gli internet point chiaramente alla registrazione dei documenti delle persone che vogliono utilizzare i servizi internet. In questo caso non veniva fatto, chiaramente non veniva fatto, o comunque veniva girato con un trucco, con delle schede prepagate a dei nomi fittizi, perché appunto a utilizzare questi servizi erano anche dei clandestini, sostanzialmente delle persone che già avevano ricevuto il decreto di espulsione o che comunque non avevano il permesso di soggiorno. E sono state proprio loro quelle che sono state arrestate, sette di loro, mentre nel complesso sono 30 le persone che sono state denunciate e che dovranno rispondere di diversi reati, tra cui appunto quelli della violazione del decreto Pisano. E quindi questa notizia, ancora per ricordare che ci sono ancora leggi che devono essere eliminate dalla legislazione italiana, che sono state fatte appunto dal governo di centrodestra, ma che richiedono una quanto più rapida rimozione. Facciamo uno stacco musicale. Come anticipato, il progetto Neurophobic di questo nostro amico si chiama Neuro, un'autoproduzione di quest'anno. Andiamo a sentire la traccia numero 6, L'ora d'aria. Il risparmio. Yeah. sera. Studio, diversi gli argomenti di cui dobbiamo ancora parlare. Puntata di aggiornamenti e news, diciamo. E dopo l'uscita di Firefox 2 ci dobbiamo sono dare anche una le brutte brutta notizie. Stavolta ci tocca. Non so volevamo che... dirlo, però c'è stato un problema di sicurezza anche per Firefox. Era dimostra, insomma, la grande diffusione di Firefox e il fatto che Vabbè. Beh, insomma, da questo punto di vista sì, dimostra c'è che un problema di che sicurezza. No, se nessuno usasse Firefox, a nessuno interesserebbe bucarlo. Sì, però è una magra consolazione, come dire. Vabbè, dai, niente, chi è che vuole raccontare? Passiamo ai fatti, c'è una vulnerabilità di Firefox 2? Microsoft Firefox. No. Mozilla Firefox 2. Che permette in particolari situazioni di... Che affligge anche l'uno, tra l'altro. Spiegacelo. Non lo so. Come? Che informazione non facciamo? Ho letto. C'hai tu il foglio. No, io non ce l'ho il foglio. Che stupido. Allora, la vulnerabilità prevedeva... Comunque, è stata scoperta... Quando? Qualche settimana fa, già un paio di settimane, che c'è la vulnerabilità che è conosciuta, o perlomeno che è conosciuta all'interno dei forum di sicurezza, è uscita poi in senso pubblico in questa settimana. Allora, era, diciamo che era già nell'aria, era prevedibile, almeno dal punto di vista di chi si occupa di sicurezza tutti i giorni. Allora, Firefox ha una funzione, come peraltro c'è anche Internet Explorer, di archiviazione dei nomi utenti e password legati ai siti. È quella cosa che vi permette quando aprite la pagina web del vostro fornitore di posta, di non dover digitare nome utente e password, ma di trovarli già scritti nel modulino e dover solo cliccare ok. Questo è solo uno degli esempi. E come appunto tutti i browser moderni, ha un sistema di archiviazione Firefox che conserva queste informazioni per poter poi compilare i form, che sono le caselline vuote. Esiste una vulnerabilità che permette, attraverso pagine appositamente costruite, di inviare queste informazioni in maniera duplice, ovvero da una parte al sito ufficiale e dall'altra invece al sito diciamo tarocco, che le raccoglie e le può archiviare, sostanzialmente sottraendovi le password. Questo perché non c'è una, un controllo sul, diciamo, su quello che avviene dopo il click sull'invio, sul bottone invio, detto in maniera molto brutale, cosa che invece ad esempio in Internet Explorer in qualche maniera c'è. C'è la possibilità anche in questo caso di aggirare, ma è molto più complessa la faccenda. Per quanto riguarda Firefox c'è una vulnerabilità ed è abbastanza grave. Non esistono ancora patch, per cui l'unico consiglio è almeno quello fino a questo minuto, perché magari tra 10 minuti in realtà potrebbe esserci. In realtà non credo, credo che la patch richiederà ancora qualche giorno, perché non è così banale. Richiede una riscrittura abbastanza consistente di una parte del codice, o meglio l'invenzione di una parte consistente che debba andare a verificare appunto cosa avviene quando si inviano queste informazioni. L'unico consiglio è quello di non archiviare mai le password, capisco che sia un consiglio abbastanza brutale, ma perlomeno di disabilitare in questo periodo la gestione automatica delle password. La gestione automatica, esatto, almeno disabilitarla. C'è l'opzione direttamente dentro Firefox di disabilitare il riempimento automatico delle form, in maniera tale da non cancellare le password, ma di non utilizzare questa funzione nel mentre questo bug è ancora presente all'interno del codice. Cosa migliore è cambiare le vostre password quando saranno patchate. Ah beh, quello sì. Vabbè, continuiamo a parlare di cose tristi per le nostre passioni, una cosa di cui non parliamo spesso, ma c'è un lato un po' oscuro di quello che tanto ci piace, ovvero le nuove tecnologie, l'high tech e tutto quello che riguarda il mondo dell'informatica. Ci sono delle cose che non vengono spesso prese in considerazione. In questo caso parliamo di inquinamento ambientale. Tra le 20 e le 50.000 tonnellate all'anno di spazzatura elettronica fluttuano, si scambiano, si perdono in esportazioni illegali e traffici illegali, si smantellano in impianti costosissimi o si disciolgono fra gli acidi nei corsi d'acqua dei paesi in via di sviluppo. Inizia così un articolo di Punto Informatico pubblicato ieri martedì 28 novembre che parla di un meeting in corso a Nairobi per quei paesi che aderiscono alla Convenzione di Basilea, che si occupa dei movimenti tra frontiere di rifiuti pericolosi. Tra questi ci sono innumerevoli discariche high tech disegnate un po' ovunque nel mondo, soprattutto Hong Kong, Bangalore, in Cina. Lì confluiscono rottami tecnologici che sono, diciamo così, generati per vari motivi, un po' irresponsabilità, un po' obsolescenza, molto dalle mafie, incapacità delle istituzioni di molti paesi che devono operare controlli e far rispettare le leggi. Una delle cose triste a cui spesso non si pensa è che un meccanismo abbastanza subdolo sta prendendo piede, purtroppo, ovvero quello che i rifiuti che non sono inutilizzabili o che costerebbe troppo smaltire vengono spesso mascherati da beneficenza. Quindi per esempio vecchi computer che facevano parte di grosse istituzioni che non devono rinnovare il parco macchine decidono di inviarli per esempio in Nigeria, Lagos o cose del genere. Una cosa che succede a Lagos, ad esempio, ho preso Lagos perché l'articolo dice che 500 container di merce elettronica usata arrivano ogni mese e per tre quarti sono spazzatura, quindi non funzionanti, non riutilizzabili né riparabili, e nonostante questo i paesi ricchi ci fanno anche la bella figura di dire che donano l'hardware ai paesi poveri. In realtà questo si ritrovano con montagne di rottami, bario, mercurio, ritardanti di fiamma, cadmio, piombo, qualsiasi cosa che sia inquinante, che vengono inceneriti in enormi discariche che poi ovviamente va a inquinare. Tutto questo si sta parlando a Nairobi, si sta cercando di porre delle regole nel settore, quindi per esempio progettazioni ecocompatibili per quanto riguarda la costruzione dell'hardware, o anche pagare gli produttori per smantellare quello che loro costruiscono senza cercare di limitare i costi aggiuntivi alle spalle del consumatore. E un altro altro degli argomenti all'ordine del giorno del meeting è quello del tracciamento dei cumuli di e-waste, che insomma, questi rifiuti elettronici, che quella del tracciamento è una pratica che, anche se è già obbligatoria, non viene rispettata da tutti, ma soltanto dal 70% dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea. E nel 2004, tanto per dare ancora qualche dato, sono stati ritenuti obsoleti 315 milioni di computer, e il mondo attuale ha trasformato persino i carrelli del supermercato in apparecchiature elettroniche. Quindi insomma, il problema ha delle proporzioni enormi. Ecco, è una cosa di cui non abbiamo mai parlato, ma chiaramente il problema non nasce oggi. Il riuso tecnologico è sempre stato uno dei pallini della cultura cyberpunk, o comunque underground, o comunque di tutti quelli che hanno girato all'interno del mondo. Nelle case di qualsiasi appassionato informatico troverete di solito cumuli e cumuli di cose che non funzionano più, ma che nonostante tutto ci si ostina a tenere per vedere se magari serve qualche pezzo di ricambio. No, ma perché poi si basa su un principio in realtà molto sano, nel senso in realtà di cui non si parlerà al convegno di Nairobi. È che molto di questa obsolescenza in realtà è un'obsolescenza forzata, perché all'interno dei mercati, dei paesi più avanzati, l'industria della tecnologia, quella che fa margine rispetto al, cioè continuando a produrre innovazione, quindi continuamente macchine nuove di sempre maggiore potenza, non potrebbe sopravvivere ad un riuso degli apparati, quindi è costretta continuamente a buttare sul mercato nuovi apparati, eliminando completamente quelli vecchi. Un'obsolescenza forzata anche dal software, nel senso che soprattutto nel corso degli ultimi 10-15 anni il software è peggiorato notevolmente in qualità da questo punto di vista, nel senso che è sempre più esoso e richiede sempre più risorse. Anche il mondo open source non è immune da questa deriva, un po' costretto, un po' perché insomma, inseguendo le vie trovandosi macchine più potenti, insomma, si usano anche macchine più potenti, però ci sono dei lati oscuri molto preoccupanti di queste tendenze, che sono appunto quelli dell'enorme quantitativo di rifiuti che c'è anche in altri settori, chiaramente industriali, intendiamoci, però in questo caso la forzatura è ancora maggiore, tanto più se si pensa che il contenuto di molti di questi apparati elettronici sarebbe riciclabile, che spesso e volentieri i materiali, contenuti anche pregiati, non vengono recuperati, perché è molto più facile andare a recuperare sempre negli stessi paesi del terzo mondo, comunque in via di sviluppo, perché costa di meno estrarli da lì ed esportarli piuttosto che recuperarli dal parliamo di materiali come il radio, il mercurio o altri materiali particolarmente pregiati che vengono utilizzati soprattutto all'interno di telefonini o delle apparecchiature high tech. Quindi è una cosa che c'è da tempo, da quando esiste l'high tech. Buono che se ne parli, però ecco, diciamo che di quello che non si parlerà nei Robi, cioè del modello economico, si dovrebbe parlare un po' di più. Potremmo lanciare l'appello di, invece che buttare via il vostro computer, telefonate a Marco e fatevelo venire a prendere da lui, che lo saprà riutilizzare. Beh, no, vabbè, anche al Circolino è sempre stato sponsorizzato, che riaprirà, ricordiamolo, ampiamente il riuso degli apparati. Purtroppo anche lì il software è comunque esigente. Vabbè, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Ancora un'ultima news, Marco? No. Sì. Ah, sì, ero un attimo perplesso. Allora, avete mai sentito parlare di offerte tipo Teleconomy o cose del genere? Magari molti di voi le avranno sentite parlare, ne avranno sentito parlare appunto perché se le sono ritrovate attivate dentro la bolletta, ovvero il signor Telecom decideva che era giunto il momento che voi pagaste 10 euro mensili di abbonamento a Teleconomy per ottenere lo sconto su tutte le telefonate che volevate fare verso il Tibet. È una cosa molto utile per molti utenti, ma per la stragrande maggioranza queste cose non servivano a nulla, ma unilateralmente Telecom decideva di attivare queste opzioni particolari. Quindi stringendo... Stai dicendo un po'... L'autorità per le comunicazioni è intervenuto su questa cosa, ha detto che appunto il telemarketing selvaggio di questa azienda deve finire, cavolo, e che adesso sarà obbligatorio, una volta che loro avranno deciso che l'opzione è attivata, che questa venga mandata per posta a casa dell'abbonato, e da questa data iniziano 10 giorni di tempo per poter recedere da questo contratto. Le sanzioni introdotte sono da un minimo di 58.000 euro. Adesso se vi telefonano a casa e vi chiedono di accettare una opzione, poi dovranno anche mandarvi il contratto a casa, e se non ve lo mandano protestate. Ancora un'ultima cosa, ricordiamo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, oggi, a partire da oggi, Indie Media si congela, quindi non sarà più possibile inserire informazioni, news, agenda, eccetera, in attesa che nasca un nuovo collettivo che riprenda in mano Indie Media Italia e ne faccia qualcosa di diverso. Quindi oggi è l'ora X, l'ora X per Indie Media Italia, vedremo cosa succederà. Se volete succederà. Scongelarlo, attivatevi. E questa è la sigla di Cialtroni nello spazio. Sigla di chiusura, ricordiamo il sito web, Marco. radio.circolab.net. L'email, Ale. radio@circolab.net. Io ricordo che siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto tutti i mercoledì attorno alle 12.40. A mercoledì prossimo.